Non so se questa settimana qualcuno di voi, cari e ben ritrovati ascoltatori, si sia preso il disturbo di raccattare in edicola una copia di Milano in Comune. Bimestrale di informazioni del Comune di Milano, anno secondo numero 2, liberamente offerto accanto a quotidiani, riviste, libri, CD, gadget, pornocassette e tutto quanto le edicole sono solite offrire. Probabilmente no. Io ce l'ho lasciato. Suppongo che anche voi, come la Came, come me, abbiate la sana abitudine di diffidare di quanto vi viene offerto in regalo, nella consapevolezza che coi tempi che corrono nessuno ti offre qualcosa gratis senza la prospettiva di un qualche suo bel tornaconto, ma forse per questa volta avreste dovuto. E avreste scoperto una cosa di cui magari non vi eravate accorti, di vivere in una città straordinaria, in mezzo a un fervore di iniziative, di progetti da toglierti il respiro, in un cantiere per l'Europa, come strilla il titolo a prima pagina su 5 colonne a colori, in cui pensate, fervono i preparativi per l'appuntamento col 2000, per realizzare, citazione, opere che miglioreranno non solo il look, ma la vivibilità della metropoli, dal passante ferroviario ai nuovi padiglioni della Fiera, dalla Malpensa 2000 alla Cittadella della Bicocca, per non dimenticare la costruzione del quarto tracciato metropolitano e prolungamento della linea gialla. E poi ci sono le piazze Duomo, Cordusio, San Babila, presto restituite agli antichi splendori. Sì. Avete capito bene, in questa città in cui la durata dei cantieri si misura a decenni e in cui abbiamo assistito più o meno attoniti alle vicende del piccolo, del verme, del passante ferroviario, in cui ci hanno messo 10 anni per ripavimentare la piazza davanti alla stazione e in cui il traffico si imbottiglia ogni volta che piove e ci vogliono 47 minuti per andare da Piazza Oberdan a Loreto, in questa città sporca, fatiscente e degradata, c'è qualcuno che ha il coraggio di parlare di appuntamento con il 2000 e che ci promette che tra 3 anni e 3 mesi, tanto manca, andrà tutto bene. Fossero solo promesse, niente di male. Chiunque è libero di promettere quello che vuole anche la luna, e d'altronde chiunque è libero di credere o non credere a quello che gli altri gli promettono. Ma dalle sue promesse questo qualcuno ha trovato il modo di farci addirittura un giornale. Un giornale che titola tutta pagina Nuovo look per le piazze e poi sottomette un riquadrato di 15 righe in cui si spiega che finalmente sono finiti i lavori in Piazza Duca d'Aosta e che tra poco cominceranno quelli in Piazza del Duomo. Un giornale che ci assicura sempre a tutta pagina arriva la linea blu. E poi in 9 righe, le altre sono fotografie, in 9 righe, sono fotografie della linea gialla e di quella rossa naturalmente, in 9 righe ci spiega che saranno al via forse nel 97 i lavori per realizzare la quarta linea della metropolitana. Il primo tratto collegherà San Babila con l'aeroporto di Vinate, gli scavi dureranno 5 anni, la relativa delibera sarà presentata prossimamente in giunta. Mentre tutti sappiamo che la quarta linea non è pronto neanche lo studio di fattibilità e che l'unica delibera che la giunta potrà presentare, se ci arriverà, riguarda l'autorizzazione a studiare il progetto, altro che l'inizio dei lavori. È un giornale che dà per fatto il trasferimento della scala alla Bicocca e il restauro del palcoscenico del Piermarini, per cui manca qualsiasi progetto esecutivo, anche se abbiamo buttato al vento 1,5 miliardi per progetti destinati a non essere realizzati. È un giornale che assicura che il passante ferroviario è praticamente in funzione, nel senso che la prima tratta sarà aperta tra 1 anno forse e l'intero percorso nel 2003 se va bene. E comunque finora come l'opera ci è costata 1,5 volte più del tunnel sotto la Manica, che è lungo 5 volte tanto, passa sotto il mare e l'hanno realizzato in 1/4 del tempo. Un giornale pieno di fotografie di sindaco ed assessori, ce ne saranno 6 o 7, ciascuno dei quali spiega quante belle cose farà se solo lasceranno lavorare in pace e lo rieleggeranno l'anno prossimo. E in particolare vi vorrei segnalare l'intervento dell'assessore all'urbanistica che garantisce 9 nuovi parchi urbani e non sciupa una parola su quelli che esistono o che non esistono. Ma anche gli altri non scherzano neanche gli altri. Ecco. Se Milano in Comune fosse un giornale sul serio, andrebbe citato in tutte le scuole di giornalismo come esempio di come non si esercita una professione che, sia pure un po' degradata, conserva qualche traccia di un'antica onorabilità. I giornalisti in genere dovrebbero raccontare le vicende del presente o dell'immediato passato, lasciando le previsioni del futuro ai lettori di tarocchi e agli specialisti dei fondi del tè. Certo, le promesse del sindaco e i programmi che i suoi assessori si illudono di poter realizzare appartengono al presente e non è sbagliato darne notizia, magari con qualche commento di natura psichiatrica, ma appunto in quanto promesse e programmi, non come opere di immediata realizzazione. Anche perché di tutto quanto finora ci ha promesso questo sindaco è stato realizzato così poco che proprio credergli a scatola chiusa sarebbe un eccesso. Ma naturalmente questo non è un giornale. Questo è un volantino elettorale che il sagace Formentini, che sa come chi ha tempo non debba aspettare dell'altro tempo, si è affrettato a mettere in circolazione con qualche ragionevole anticipo. E che da amministratore sagace, che odia spendere di tasca sua quanto può debitare a qualcun altro, ha avuto la bontà di far pagare a noi. E facciamoci forza, amici, ci aspettano 6 mesi difficilissimi. Thank you.